Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti amici ascoltatori, ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Anche oggi un grande ospite che tra un attimo vi presento qui vicino a me. Ma soprattutto la domanda di oggi, con tutte le maiuscole al loro posto, è: riuscirebbe l'All-Star Team di Dan Peterson a battere la Monte Paschi Siena? Coach, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Abbiamo qui Davide Pessina, ciao Davide, grazie. Ciao, buongiorno, coach, buongiorno. Ciao Davide. Davide, riuscirebbe l'All-Star Team che Dan Peterson ha disegnato questa settimana su Superbasket, e posso anche leggerlo, Playmaker Bokins e Becirovic, quindi in guardia Mordente Vitali, tutta Milano, 3 della Fuente da Tome, 4 Mancinelli, Michelori e Ford, parentesi, Mancinelli però cosce, in 4 non vuole giocare. 5 a Kindere e Bagaric, basta per battere Siena, Davide? Beh, allenata da coach Peterson probabilmente sì. Grande Davide, aumento di stipendi per Pessina, ok? Coach, perché questa squadra? E perché pensi di poter battere Siena con questa squadra? Continuiamo a giocare, magari invitiamo anche gli ascoltatori. 800-24-0024. Guarda, innanzitutto non ho detto certamente si vincerebbe contro Siena. Dico che questa squadra, secondo me, coprendo tutti i ruoli, avendo qualche specialista, avendo certi scopi, volendo giocare in velocità, avrei potuto anche scegliere un'altra squadra per un altro tipo di gioco. Però questa squadra piaceva a me, un altro allenatore magari avrebbe scelto altri. Diciamo questo, io ho detto qui che sarebbe una partita forse a supplementare, perché Siena mi sembra una spanna sopra le altre, e per battere loro bisogna forse scegliere un tipo All-Star Team con ovviamente limiti di stranieri eccetera dal campionato. E Davide ha ragione, vorrei io allenare la squadra. Davide, se c'è un giocatore che Coach Peterson ha giustamente scelto e che io oggi vorrei nella mia squadra, è Sani Becirovic tutta la vita. L'ho visto anche ieri sera, a proposito dei risultati, perché ancora non li sa l'automatica, 76-67 con il Fenerbahce, l'Armani prima vittoria in Europa, 77-73 con il Panionios. Becirovic anche ieri sera giocando playmaker per l'oscuramento totale di Jaber e di Jennings sparito dalle rotazioni. E fa quello che vuole. Beh sì, un giocatore ormai che ha una grandissima esperienza, il talento non si è mai discusso, adesso esperienza e soprattutto capacità di fare le giocate importanti quando servono, si prende responsabilità, ha grande capacità di subire falli, che nel finale di partita è una cosa molto importante, andare in un'eta a percentuali mostruose, per cui sicuramente un giocatore che non ha paura di prendersi responsabilità e le prende sempre nel modo migliore. Questo, insomma, anch'io in una mia squadra vorrei sempre averlo. Tutta la vita. Io invece volevo chiedere a coach Peterson il motivo della scelta di Bagaric e Akindele, soprattutto del primo, perché mi sembra un giocatore che vada un po' in controtendenza. Forse l'hai scelto per questo, coach. Io nel basket internazionale FIBA, le squadre nazionali, le squadre di club, conviene non sempre ma qualche volta avere quello che si dice in americano standing height, cioè altezza stando lì in piede, e lui è una montagna, ok? Quindi qualche volta ci vuole la montagna. Io lo vedo lui come specialista, probabilmente con questa squadra non giocherei con un pivot puro, poi Brezic potevo prendere lui, molto più versatile, ok? Quindi ho detto, ho scelto le cose con certe, come fosse una squadra nazionale, che ho fatto coach della nazionale nel Cile dal 71 fino al 73. E in questo bisogna, quando si scelgono 12 giocatori, avere per alcuni di questi uno scopo specifico. Bagaric è quello che mi darebbe, diciamo, peso sotto canestro, cioè uno difficile da spostare, uno che occupa spazio, uno che dà e prende botte senza dire niente, cioè proprio questo tipo di giocatore, ma non di 40 minuti, assolutamente no. D'accordo anche Jack con l'osservazione di Flavio, l'ascoltatore, messaggi 349-238-6666, si domanda perché Coach Peterson l'ha spiegato, perché nello star team. Jack suggerisce Hudson, altro giocatore mostruoso. Esatto, recentemente, infatti se c'è una critica della mia squadra è l'esclusione di Hudson, che in questi giorni qua, negli ultimi 10 giorni, dopo avevo scritto il pezzo, e sta venendo fuori alla grande, assolutamente. Forse se dovesse rifare la squadra sarebbe lui forse il primissimo giocatore messo. Davide, tu come spieghi invece la crisi, l'eclissi di Jaber irriconoscibile, di Jennings che non gioca più la chimica di Roma, come la spieghi in questo momento? In divenire, la spiego. È chiaramente una squadra rinnovata, una squadra con rotazioni lunghe, con tante possibilità per coach Repesa, per cui io credo che non si siano ancora ben definiti i ruoli, a parte quello che dicevamo prima di Becirovic, che è il giocatore deputato a prendersi tante responsabilità. Però, scusa Davide, però anche lì Rebesa l'ha fatto partire in quintetto l'altra sera in Eurolega dopo che l'aveva fatto partire solo per la prima partita in campionato, quindi forse anche in questo deve ancora cercare l'assetto giusto. Io credo questo sia, cioè proprio questo il significato, sta cercando l'assetto giusto, sta cercando di capire i quintetti anche come possono essere amalgamati. A me sembra di notare che tante volte sia Jennings quando è in campo con Ray, per esempio, sì, per cui anche a coppia, in modo da probabilmente testare le varie compatibilità. Credo che questa sia la cosa primaria al momento per Roma: trovare un equilibrio, trovare delle gerarchie, trovare degli equilibri. Non è facile, tanti giocatori di personalità, di talento, che potrebbero avere anche più minuti in altre situazioni, devono trovare l'equilibrio. Jaber secondo me paga un momento di stanchezza, ha avuto l'estate anche lui impegnata con la nazionale bulgara, e poi non riesce tante volte a entrare in ritmo partita. Però io credo che Roma sicuramente come rotazione sia lunghissima, a patto che trovi questa famosa chimica. Cosa, sei d'accordo? Innanzitutto, assolutamente, cioè, quando ci sono le rotazioni lunghe, uno che esce, si vede anche nell'NBA, tanto per dire, è difficile. Poi c'è un'altra cosa, ha detto Davide perfettamente, una squadra rinnovata abbastanza, ok? Quindi ci sono tanti nuovi giocatori. Io dico una cosa, inserire un nuovo giocatore, cioè io mi ricordo quando Meneghin è venuto da noi nell'81-82, oh Dio, cosa facciamo con Meneghin, uno sposto lì, non so. Pensate a inserire 5, 6, 7 giocatori come sta facendo Repesce con i vari Gigli che arriva, Jennings che arriva, altri che arrivano, cioè è molto ma molto difficile. Io ho sbagliato io a giudicare Roma già competitiva a questa parte del campionato, troppo presto, ho sbagliato io, perché io ho guardato, come forse tutti fanno, la rosa di giocatore, che era una buonissima rosa, ok? Sì. Adesso mi modifico la mia idea su questo qui, dicendo, cominciamo a valutare Roma da primo marzo in poi, primo febbraio, metà febbraio, primo marzo in poi, quando hanno potuto capire i ruoli, i minutaggi, dove gioca uno, dove gioca l'altro, quando veramente c'è la coesione della squadra. Tu figurati che Sasha Georgievich, ti ricorderai, l'ha pronosticata da titolo l'altro giorno, quando è venuto qui un paio di settimane fa, ma non credo che abbia cambiato idea, anche perché è un testone. Passando a Milano, di voglia e di cuore la prima vittoria in Eurolega, Davide, però sembra una squadra ancora tremendamente povera di talento, di centimetri, di appeal, di tutto quello che vuoi. Bah, Milano è una squadra un po' indietro effettivamente, si è avuto una prestagione difficile, tornando al discorso di prima, anche questa squadra molto rinnovata, per quanto con giocatori teoricamente affidabili, deve trovare i suoi equilibri, deve trovare soprattutto una condizione fisica generale migliore, ha avuto parecchi giocatori fermi, ne ha ancora qualcuno, Papso per esempio, sì, per cui sicuramente questo è un aspetto da considerare. Qualche problemuccio comunque effettivamente comincia a venire fuori, nel senso che sembra una squadra che potesse essere più atletica. Milano nelle ultime stagioni secondo me ha pagato un po' la mancanza di atletismo generale, e anche questa squadra non sembra particolarmente composta da atleti, però è una squadra che secondo me può crescere, è una squadra con giocatori esperti, è una squadra che anche lì, quando troverà la quadratura, potrà fare una stagione di buon livello. Non credo sia a livello di Siena sicuramente, probabilmente neanche di Roma, e nemmeno della Virtus Bologna, secondo me come talento puro, probabilmente nemmeno della Virtus Bologna, ma neanche della Fortitudo come talento puro. Come solidità potrebbe trovare dei buoni equilibri, con la fiducia potrebbe fare una buona stagione. Primo ascoltatore di oggi, ripeto, 800 24 00 24, numero verde, Paolo Vicenza, buongiorno. No, allora, premessi di ringraziamenti per avermi richiamato e i complimenti per la trasmissione. Volevo porre una domanda rispetto alla partita dell'Aira di Santa Gabria. Sembra di aver detto che c'è la possibilità di prestare ricorso, in particolare per ciò che concerne Paolo, faccio fatica a sentirla, adesso proviamo a richiamarla, perché sennò non, la domanda non riusciamo nemmeno a capirla. Io vorrei invece, prima di salutare Cos Peterson, affrontare un discorso che ci porta, poi torniamo ovviamente sui temi Milano, Eurolega, campionato, avremo Davide Pessina per tutta l'ora. Cos Peterson invece tra un attimo lo salutiamo, e volevo affrontare il discorso NBA con la mega trade di New York, che libera spazio per il 2010. Noi tifosi italiani facciamo un po' fatica a capire questi meccanismi. A New York pare siano contenti, però mi pare, coach, che il solito vecchio saggio Steve Nash abbia detto la cosa più intelligente di tutti, e cioè: capisco che per i tifosi la stampa sia una grande cosa, no? la corsa verso Dwayne Wade, Chris Bosh, soprattutto LeBron James. Però, dice Steve Nash, per un giocatore nulla è più idiota che pensare oggi al 2010. Io mi alzo in piedi e applaudo. Vale, innanzitutto chiudo, faccio un nodo sul discorso Primus Milano. Sì. Ieri hanno vinto la partita con le unghie, strappando 2-3 rimbalzi in attacco perse, quindi buon segno per Milano. Per l'NBA, New York Knickerbockers, è chiaro, il tetto salariale non esiste qua, quindi è difficile capire l'idea di essere sotto questo per abbastanza soldi per poter offrire una fortuna alla LeBron James. Ma da qui al 2010 è lunga però, eh? Certo, certo, però io sono convinto che la società, prendendo dei giocatori non stelle ma solidi, come hanno preso in questi cambi qua, tipo esempio Tim Thomas, Coutinho, Mobley, sì, sono giocatori che possono dare solidità e allungare la squadra, e Mike D'Antoni dovrà fare miracoli per 2 anni, perché puntano, hanno la visione, almeno la società, lunga distanza, cioè lungimirante, vogliono pensare a prendere questi grandi giocatori, ma io non penso minimamente che rinunceranno a questa parte di quest'anno qui o l'anno prossimo. Giocheranno alla morte per vincere, perché conosco Donnie Walsh, conosco Mike D'Antoni, giocatore, il loro orgoglio, e anche per i giocatori che sono lì, grande opportunità per loro, per far vedere che anche loro valgono, che meritano spazio nel contesto di 2010. Ecco, purtroppo invece per noi italiani c'è stata questa notizia delle 8 settimane di terapia per Danilo Gallinari, al termine delle quali si valuterà tanto eventualmente l'ipotesi di un'operazione. Ogni volta che ci danno notizia è peggio di quello precedente. È vero, è questo vero. Lo dico quasi scherzando, però Danilo ormai abbiamo compromesso questo campionato qua. La mia speranza è che prima o poi riuscirà lui a giocare 5, 6, 7, 10 partite in questo campionato per non dover partire da zero e anche meno 10 l'anno prossimo, di avere almeno capire che cosa NBA, cosa deve fare, inserirsi nel gruppo, eccetera. Io ho rinunciato a avere Danilo 25-30 minuti a partita quest'anno. Se lui gioca gli ultimi 10 a 10 minuti a partita, stappa una bottiglia di champagne. Cosa, ci sentiamo venerdì prossimo, grazie. Grazie, ciao Davide, ciao amici sportivi, ciao a tutti. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi è tornato Paolo da Vicenza, speriamo che la comunicazione sia migliore, e poi soprattutto sono curioso di sentire l'opinione di Davide Pessina su questo approccio non difficilissimo di Danilo Gallinari, che tra l'altro ha addosso una montagna di pressione, perché New York è New York. Palla spicchi. Ecco che torniamo, provando a ricollegarci con Paolo da Vicenza. Proviamoci. Paolo? Buonasera, spero che questa conversazione sia... Adesso sembra meglio, dica. Non so dove io sia arrivato precedentemente, di formula la domanda. In particolare facevo riferimento alla partita sostenuta dall'Aira Vedino a Zagabria e al famoso giallo dell'ultimo possesso palla non concesso all'Air. In particolare perché l'orologio marcatempo sembra che si sia bloccato e quindi a vantaggio del Cibona, che ha avuto l'ultimo tiro e poi chiaramente si è andato all'overtime con la sconfitta dell'Avellino. Ho letto, ora non ricordo dove, che c'era questa possibilità per l'Avellino di presentare ricorso. Ecco, io volevo sapere se questo ricorso sia stato presentato e quale possibilità ha la Live, laddove appunto il ricorso fosse presentato, di poter ripetere la partita. Ricorso non risulta. Non mi pare ci siano notizie in questo senso, e poi credo che poi sia anche abbastanza difficile decidere in queste situazioni. C'è stato qualche caso, se non sbaglio, qualche anno fa, di partita che è stata fatta ripetere, forse non in Eurolega ma in FIBA. No, Tau era stata fatta ripetere per, credo, un problema legato anche lì a un fischio, però più che altro non credo. E quindi è sempre difficile, credo, determinare questo caso. Però sinceramente non mi pare di avere notizie di ricorso da parte di Avellino, dunque... Sì, non credo nemmeno ci siano gli estremi, comunque, in tutta sincerità. E in ogni caso, se ricorso doveva essere, sarebbe già stato presentato. Invece, tornando al discorso Gallinari, Davide, la mia idea, che ho mille volte detto da questi microfoni, è che il Gallo abbia un po' affrettato i tempi e non sia ancora fisicamente pronto probabilmente per un impatto devastante come quello del mondo NBA. In più c'è una pressione enorme adesso sulle sue spalle, perché prima scelta, ricordiamo i fischi al giorno del draft, e adesso sono tutti lì ad aspettare che torni. Quindi immagino stia vivendo non benissimo questi mesi. Beh, credo che non sia per niente facile a 20 anni, insomma, trovarsi in una situazione del genere. È chiaro che la pressione è tanta, poi New York te ne mette di suo tantissima con la stampa, le televisioni, insomma c'è grande attenzione. Francamente io credo che il discorso di che sia andato troppo presto non lo so, nel senso che chiaramente hai l'opportunità, sai che capisci che puoi essere scelto molto alto da New York, allenata da Mike D'Antoni, credo sia un'occasione difficile da rifiutare, dire sto ancora 2 o 3 anni per crescere e poi andare là. Io credo che fosse un'occasione troppo grossa e comprensibilmente lui l'ha presa. Il resto non lo so, francamente è una situazione difficile da decifrare. Io credo che la cosa principale sia che finalmente riescano a fare una diagnosi finale, perché il problema è nato a giugno, ai primi di luglio, insomma, per cui sono passati quasi 6 mesi e la situazione è sempre la stessa, nel senso che vanno per tentativi, l'hanno fermato una prima volta, poi è ripartito, poi l'hanno rifermato, adesso lo rifermano, non si sa se c'è bisogno di un intervento chirurgico, ma sembra di no, perché se è solo un discorso di protrusione di scale, io credo che intervento chirurgico... Problema che tra l'altro tu hai avuto. Problema che io tra l'altro ho avuto, infatti non era risolvibile tramite intervento, l'ho risolto con un intervento dopo aver smesso di giocare, ma perché mi era uscito definitivamente il disco, per cui non lo so, francamente io credo che la cosa più importante sia cercare di capire esattamente quale sia il problema e poi fare le terapie o gli interventi del caso. Al momento mi sembra che questo non sia ancora stato fatto. Io comunque con questione di per quanto riguarda i tempi, abbiamo detto mille volte, a me tutte le volte viene in mente Ginobili, mi viene in mente vabbè Toni Kukoč molti anni fa, mi viene in mente Drazen Petrović anche qui molti anni fa, mi viene in mente Rudy Fernández invece in questi giorni, cioè giocatori che sono andati di là, Danilović stesso, già pronti, già stelle europee. Anche perché sì, con Franco Casalini si diceva la settimana scorsa, insomma, in fondo vincere in Europa non fa così schifo. No, anzi. Qui Davide trovi una trincea di gente che pensa che forse Gallinari sarebbe dovuto andare magari da campione d'Europa, magari da reduce da una stagione di altissimo livello in Eurolega, alla corte di un grande allenatore, quindi con un bagaglio anche di esperienza alle spalle maggiore rispetto a quello che ha adesso. E quindi insomma questa è una cosa che abbiamo sostenuto per lungo tempo. Ma io sono anche tendenzialmente d'accordo anch'io, è chiaro che insomma esperienza di Eurolega ad alto livello con allenatori di un certo tipo, diciamo Messina, Obradovic, insomma nomi di questo livello, sicuramente ti fa crescere, sicuramente ti aiuta a giocare anche partite di un certo livello, a fare esperienza insomma della pressione di un certo livello, questo sicuramente è una cosa importante, credo che abbiano valutato. D'altra parte però io credo che se tu sai che riesci a entrare insomma tra i primi nelle scelte anche a livello di contratto, hai un certo tipo di contratto, e adesso dico io, è una mia... come dire, è il mio pensiero, però magari tu dici va bene, rinuncio al numero 6, numero 7, numero 5, quello che poteva essere, e il contratto conseguente per crescere e migliorare. Ma se mi rompo una caviglia in questi 2 anni e non gioco un anno per qualsiasi cosa, ho il problema alla schiena famoso, viene fuori prima, magari passi al 25 come scelta, chiaro. E contrattualmente è un'altra cosa. È chiaro che non si basa tutto sui soldi, però essere scelto alto sicuramente ti dà delle garanzie diverse. Sì, poi credo che comunque la destinazione e l'allenatore abbiano avuto un ruolo determinante. Sì, perché credo che in NBA quello sia la cosa che fa la differenza più di tutto. Dove finisci, in che tipo di squadra finisci, con che tipo di allenatore, di compagni. Credo che, onestamente, con tutto rispetto, finire a San Antonio o finire a Memphis per un giocatore europeo ci sia molta differenza. Sì, poi dopo le informazioni sulla borsa parliamo nella seconda parte anche di Milano in maniera più profonda, visto che ci hai giocato ed era una Milano straordinaria. Tra l'altro con Mike D'Antoni. Sì, un anno fatto con Mike D'Antoni. E te l'aspettavi a questi livelli da allenatore NBA? Ma NBA non so, da allenatore a alto livello sì, io ho giocato con lui, l'ho avuto sia come compagno di squadra che come allenatore, ma già come compagno di squadra, insomma lui era a fine carriera, però si vedeva come vivesse la pallacanestro proprio 24 ore al giorno, la sua enorme passione, la sua voglia in ogni situazione di analizzare tutto, cioè già da allenatore in campo, è una banalità, si vedeva sì, che era così, però davvero appassionato con questa idea in testa, e poi comunque cresciuto come allenatore, ha fatto bene. È chiaro che poi in NBA credo che sia un discorso diverso, un ambiente diverso, ci vuole fortuna, essere anche lì il posto giusto al momento giusto, insomma a Phoenix con Nash si è creata una situazione anche tecnica perfetta, però sul fatto che insomma sulla passione, la competenza e il carattere, nel senso il carisma di Mike come allenatore, avrei scommesso sì. Intanto, mentre stavamo conversando, io sono andato a vedere il sito di Avellino e non c'è traccia di nessun ricorso, dunque penso. Direi che la minaccia è stata sventata. La minaccia è stata sventata. Qualcuno, sì. Qualcuno chiede dove sia finito Marconato. Marconato è finito a San Sebastian nella Liga ASB, sta avendo statistiche da 18 minuti a partita con 6 punti e quasi 4 rimbalzi a partita. Insomma, questo dopo aver lasciato il Barcellona è stata questa la sua destinazione. Io l'avrei reclutato per il nostro campionato, Marconato. Ad esempio a Milano malissimo non avrebbe fatto, con questa Milano. No, è solo un'idea. Che avrebbe potuto essere una buona idea, ma anche altre società. Però io credo che uno che ha giocato in Spagna in questo periodo, prima di tornare in Italia, con tutto il rispetto per il campionato italiano, insomma la Lega Spagnola adesso probabilmente è la migliore in Europa, non solo per la qualità ma per delle squadre, ma anche per il movimento, la qualità dei palazzetti, che sempre pieni, grande seguito, grande entusiasmo. Per questo io credo che giocare in Spagna sia una bella soddisfazione. Infatti poi proprio di questo parliamo, perché Milano invece gioca in una cornice un po' corbelliana, se mi passate il 2.456 spettatori c'erano l'altra sera al forum, quindi immaginati che deserto dovesse esserci. No, li contavi, ma è un ambiente comunque, un ambiente freddo, un ambiente che non riesce ad appassionarsi, a decollare, ma perché questa non è una Armani a immagine e somiglianza della Milano del basket. Poi ne parliamo con Davide Pessina, che la conosce bene. Palla spicchi. Ci eravamo lasciati con attesa di approfondimento da parte di Davide Pessina qui con noi su Milano. Ricordo il contatto 800240024 se volete parlare con noi. Davide, dunque, una Milano che gioca in una cornice corbelliana, che non riesce ancora a far breccia nel cuore della gente, che non riesce ancora ad appassionare. Prima Flavio ci diceva i numeri impietosi degli spettatori che seguono questa squadra. Insomma, alla fine è arrivato Armani, ma ancora non si vede, non si tocca. Perché? Sì, beh, credo che sia un po', faccia parte della loro idea di come entrare nel mondo della pallacanestro. La mia impressione sia che sia stata quella di entrare con calma, cercando di evitare proclami o spese folli, cercare di trovare magari un equilibrio per poi, insomma, col passare del tempo, nel corso di un progetto che si spera pluriennale, insomma, di ritrovare Milano ai vertici. È chiaro che probabilmente il pubblico si aspettava qualcosa di più di impatto, di più di anche che facesse sognare un po' di più. Il discorso che ci sia poca gente, io credo che sia il solito discorso di Milano: se vinci la gente viene, se non vinci la gente non viene. Non c'è mai scampo da questo. Tra l'altro c'è anche questo progetto che potrebbe, secondo alcune voci, essere minimamente cambiato, nel senso che la forte impronta italiana, si parla di Bulleri che potrebbe andare via da Milano con direzione Pesaro, potrebbe anche fare le valigie Thomas, che in questo inizio di stagione ha convinto, forse più no che sì, per tornare ad un giocatore esterno di posizione di 1-2, diciamo, di un playmaker guardia americano. E qui Davide lascia a te la voce di cui parlavamo prima. Sì, non lo so, francamente mi sembra una voce strana, perché insomma già abortire il progetto dopo 2 mesi mi sembra francamente presto, anche parlando, tornando al discorso di prima, dei tanti infortuni, comunque una prestagione difficile, giocatore nazionale, giocatore vitale tornato rotto, poi si è di nuovo fermato, lo stesso Bulleri si è fermato, per cui insomma credo che bisognerebbe aspettare ancora un attimo prima di bocciare già tutto, vedere a che punto può davvero arrivare questa squadra. Poi per cercare un 1-2 americano mi sembra che al momento non è che il mercato offra queste soluzioni, cioè si parla per fare dei nomi di Melvin Booker, su cui c'è un'asta di varie società. E se c'è un'asta per Melvin Booker? No, nel senso, sicuramente ottimo giocatore, Milano sì, se sì. Lo ricordano, però un giocatore comunque ultra trentenne, per cui insomma non so se vale la pena davvero, però francamente non so, ci sono viste negli ultimi anni un po' di tutti i colori, per cui può veramente succedere di tutto. E Bulleri comunque non ha mai avuto un rapporto, è stato un rapporto strano quello di Bulleri con Milano. L'ha sofferta. L'ha sofferta. Tu sei arrivato... Milano mette pressione. Esatto, tu sei arrivato qui molto giovane tra l'altro, ma con 20 anni, sì. con grandi campionati già alle spalle con Torino. E insomma Milano ti sta addosso, anche se c'è poca gente, tu sai che comunque sono lì alla finestra e non ti perdonano niente. Vale nel basket come vale nel calcio. Sì, no, beh, il discorso più in piccolo che si può fare, che facevamo prima su New York, insomma, nel senso, tra la stampa, il pubblico, l'opinione pubblica ti mette pressione. Qui sono passati fior di giocatori, per cui hanno vinto tanto, chiaramente le aspettative sono alte e quindi la pressione è conseguente. Lui l'ha un po' pagata, è arrivato con un contratto molto alto, forse gli sono state messe troppe pressioni anche sulle spalle, si pensava che dovesse diventare quel tipo di giocatore che non era. per cui io credo che questo è sicuramente un po' la pagata, però adesso è in una situazione in cui può, a patto che ovviamente stia bene fisicamente, far vedere quello che vale in una situazione in cui la pressione è un po' minore. Io credo che comunque Bulleri sia un giocatore importante per questa squadra, un giocatore che anche come caratteristiche di personalità, di carattere, un giocatore che può dar molto. A me sembra sempre che manchi un grande leader in questa squadra, cioè un leader vero, e tu sai bene quanto, soprattutto in una piazza come Milano, uno che ci mette la faccia, che si carica la squadra sulle spalle, uno che porta la gente ad identificarsi con quella squadra, serve. Che si chiami poi Mike D'Antoni, che si chiami Sasha Georgievich, che si chiami magari nei sogni Yashikevicius, uno così ci vuole, no? Beh sì, sicuramente potrebbe aiutare molto. È chiaro che nella storia di Milano, legata ai grandi successi, ci sono giocatori che hanno, diciamo, Nando Gentile, Bodiroga, Nando Gentile, Bodiroga, sì, ce ne sono mille, ce ne sono tanti che possono essere citati. È chiaro che tutte le squadre hanno bisogno di un leader, specialmente quelle, insomma, in piazze come questa. Si pensava probabilmente potesse essere David Hawkins, l'ha fatto all'inizio, soprattutto la prima partita a Pesaro, un giocatore che ha grandi qualità e grandi caratteristiche. È ancora discontinuo, anche questo però è un discorso che deve nascere nel corso della stagione, non so come dire, inutile designarlo un leader, il leader viene fuori dal gruppo, dalla situazione. Anche qui il fatto che ci siano tanti infortuni, pochi allenamenti, poche partite al completo, non ha ancora forse permesso questo, però è vero che forse una mancanza di leadership al momento ci può essere. Fabio, cambiando città, mi spieghi cosa ha combinato Blizzard a Bologna? Blizzard, c'è una questione abbastanza delicata, nel senso che Blizzard ha chiesto e ottenuto di essere ceduto dalla Virtus Bologna, pare dopo una polemica con Bonicioli per un utilizzo abbastanza marginale nella partita contro Cantù, che non so se Davide forse tu hai commentato. Ha chiesto Blizzard, ha ottenuto di essere ceduto. Forse, Carlo, è il caso di farcela spiegare da Bonicioli. Adesso, appunto, vi facciamo sentire cosa ha detto ieri Matteo Bonicioli sul caso Blizzard. Brett gioca, parte in quintetto, segna un buon tiro da tre punti, dopodiché con una difesa discutibile, ma non per cattiva voglia, semplicemente perché l'americano, la guardia di Cantù, è atleticamente più prestante di lui, con la sua difesa lo mette in partita, io lo tolgo. Ed entra un suo compagno di squadra che gioca bene come Cotone, lui sta seduto e vinciamo di 20. Siccome a me non risulta che la gente di Brett si sia lamentata, società, quando con 28 minuti in campo il suo assistito la nostra società ha perso di 35 a Pesaro, perché non mi risulta che siano arrivate mail di lamentele perché il suo giocatore, dopo aver giocato 28 minuti, la squadra aveva perso di 35, né di lamentele né tantomeno di scusa, ho giocato 28 minuti ma la mia squadra ha perso di 28, mi vergogno come un ladro, no, è arrivata una lamentela dopo che avevamo vinto di 20 in trasferta la seconda partita consecutiva, che lui non voleva giocare più. Non l'ha detto a me, che però sono l'ultimo arrivato, non l'ha detto a Claudio Sabatini, che gli ha rinnovato il contratto quando lui aveva una caviglia malata, e è andato a parlare con il general manager come se questo fosse un ufficio del catasto dove si fa burocrazia. Qua siamo esseri umani, ci sono i rapporti, e la prima cosa che offende me, che sono l'ultimo arrivato, è che siccome so la storia di Blizzard in questa società e so quanto la società abbia dato a Blizzard in termini di fiducia, sono rimasto molto sorpreso. Ed è altrettanto chiaro che molto serenamente, quando un giocatore chiede di essere trasferito e vuole andare via da Bologna, dalla Virtus, dall'Arcoveggio, dalla Future Show Station, che vada. E quindi tanti auguri, in bocca al lupo per la sua carriera. Io non ho rancori, gli auguro con grande sincerità un futuro importante. Io credo se lo potesse costruire qui, anche perché dopo la partita con Cantù, mi sono testimoni i miei colleghi che lavorano con me, in Pullman preparavamo la partita con Ostenda e Blizzard era in quintetto di nuovo. Perché io di lui mi fidavo, evidentemente lui non si fidava di me, di Claudio Sabatini, della società, non lo so, ma questo è un problema di Blizzard. Ci è andato giù piano, insomma. Matteo ha questa capacità di, insomma, esprimere le sue idee con grande chiarezza. Insomma, pare che alla fine ci sia stata, come raccontava Bonicioli, un intervento da parte del giocatore, del suo staff, del suo procuratore presso la società per un utilizzo poco ortodosso, secondo l'agente di Blizzard, del giocatore nella partita peraltro vinta con Cantù. Blizzard ha deciso di chiedere la cessione, l'ha ottenuta evidentemente anche senza troppo rimpianto, mi pare di capire. Resta il fatto che comunque, ripeto, la Virtus secondo me è potenzialmente la terza forza del campionato. Non capisco ancora bene quanto valga fino in fondo Treviso. Treviso deve ancora anche lei trovare un minimo di equilibrio, però è sicuramente più convincente delle ultime stagioni, una squadra che sembra solida, una squadra che ancora ha momenti di alti e bassi, di clamorosi, come dire, di clamorosa amnesie sì. durante la partita, però una squadra quadrata, una squadra con un allenatore d'esperienza, con soprattutto direi un'idea tecnica ben precisa. Fortitudo invece Fortitudo. Il solito grande casino. E tra l'altro Fortitudo che ha, lo diciamo, ha tesserato finalmente Strawberry, ha tesserato finalmente anche Gregor Fucka, si sta alla finestra mi pare per Di Kudis, ma non si è ancora non è ancora fatta, quindi una discreta rivoluzione. Sì, già dall'inizio dell'anno insomma c'era stata una grossa rivoluzione, sicuramente una piazza abbastanza calda dove ogni minima cosa può essere accentuata, una squadra che a inizio anno io avrei messo anch'io tranquillamente nelle prime 4-5 forze del campionato per talento, grande talento, a volte di difficile gestione, si è visto il caso forte come è andato a finire, anche Quintel Woods non è facilissimo da gestire, è però il solito discorso che ti trovi obbligato a fare, se però questi trovano l'equilibrio giusto e trovano modo di giocare insieme sono pericolosissimi. Qualche problema tra l'altro di infortunio, perché è stato comunicato proprio oggi che Davide Lama ha riportato la sospetta lussazione della spalla e dunque si fermerà il capitano della Fortitudo, dunque qualche problema anche dal punto di vista delle rotazioni, oltre che poi Lama è un giocatore molto importante per gli equilibri, sì, anche dal punto di vista proprio dell'approccio mentale proprio... Ma anche perché Flavio non ci sono più playmaker in giro, non ci sono più le mezze stagioni, non ci sono più neanche i playmaker in giro, dai, diciamoci la verità. Diciamo che è un ruolo che si è un po' evoluto, è cambiato da quello che eravamo abituati a vedere, mettiamola così. Sì, io mi rivolgerei quanto al playmaking in questo momento all'Argentina e alla scuola slava, ma queste sono mie impressioni, cioè io nella mia squadra Cost Peterson prende Boykins e fa benissimo, io non so chi andare a pescare in Italia, però in generale i playmaker che mi piacciono non sono americani. Sì, beh, dipende anche lì, però... Salvo Sgarrino McIntyre, quello esatto, mi piace. Discorso anche questo complesso, nel senso che alla fine comunque la pallacanestro è cambiata, per esempio Bosch e Tannevich ha vinto un europeo senza un playmaker, Chicago Bulls giocavano praticamente senza un playmaker, per cui bisogna capire anche lì il tipo di idea che vuoi avere tecnica dietro la tua squadra. È chiaro che anche se non è il playmaker... il più piccolo e che porta la palla di là, ci vuole un giocatore che ti possa gestire i palloni in attacco. Mi viene in mente Siena ha McIntyre sicuramente, ma il playmaker probabilmente vero aggiunto è Storck, certo. Becirovic è il discorso di prima, può giocare da numero 3, però poi la palla in mano può giocare ovunque, ufficialmente magari al playmaker di fianco, però poi alla fine chi gestisce i ritmi è lui, per cui insomma l'importante secondo me è che ci sia un'idea tecnica dietro queste varie scelte. Dopo il traffico mi piacerebbe parlare con te Davide anche un po' di Eurolega e delle altre squadre. Volentieri. Perché io vedo cose interessanti in giro, a partire proprio diciamo dalla squadra slava, da un Partizan che comunque sta andando bene, che ha perso di un punto col CSKA Mosca e con, a proposito di palazzetti vuoti, presente Pionier. Abbastanza. La bombonera del basket europeo. Palla spicchi. Ecco, torniamo, ripeto, 800 24 00 24, se volete venirci a trovare telefonicamente 349 238 6666, per i vostri messaggi. Manca un genere di grandi qualità, Alessio da Treviso, conosco Renzo Crosato, insomma GM di grandi qualità, dove? A Milano, immagino, non capisco il messaggio. Roberto da Roma, buongiorno. Buongiorno, dica. Senti, un'informazione, ho letto su un giornale che il CSKA rischia, perlomeno le donne, rischiano di sparire per un buco che c'è in Russia, anche gli uomini rischiano? Non saprei. Il CSKA donne mi sembra che sia anzi, sono praticamente certo che abbia chiuso. Ha rinunciato all'Eurolega femminile, sì. Invece per quanto riguarda gli uomini non mi sembra che non credo ci siano grossi rischi. Non è una situazione ottimale neanche per loro, però non credo che ci siano grossi rischi di chiusura. Adesso proviamo a chiamare Ettore e chiediamo direttamente a lui cosa dice. Sì. Ma invece parla CSKA che sul campo, dicevamo prima, ha vinto di un punto a Belgrado, il Partizan nella bombonera, perché è uno spettacolo assoluto, credo, no, Davide? Sì. Unico in Europa quel palazzetto. Beh, se non unico, però molto particolare. Sì, molto sì. Particolare. Beh, sono già un paio di stagioni che sono tornati a fare le cose alla slava. Eh sì, l'anno scorso hanno fatto molto bene, sono arrivati al barrage, insomma, ai quarti di finale di Eurolega, poi battuti dal Tau, però sono una squadra sempre interessante, con giovani, sfornano giovani, una solida, è tornata la grande scuola, insomma, dove c'è possibilità di prendere, far crescere giocatori, valorizzarli e darli via. Per esempio Pekovic, l'ultimo Pekovic, che è andato via, come anche Ketsman. Quest'anno di nuovo hanno trovato buoni equilibri e secondo me c'è un giocatore che a me piace tantissimo, che Beriškovic. Piace solo a me, esattamente, però sicuramente un giocatore che vedremo prima in Europa, poi forse anche dall'altra parte dell'oceano a alti livelli. È tornata la scuola slava, sarà anche per il fatto che forse anche loro hanno capito che andare, che cedere alle tentazioni di NBA quando sono bambini, Radmanovic mi viene in mente, ma ce ne sono mille altri, non paga grandi dividendi fino alla fine. Sì, difficilmente cresci, questo è vero, dipende dove vai a finire, il discorso di prima, e non sempre riesci a continuare la tua maturazione tecnica, perché comunque c'è anche differenze tecniche appunto evidenti tra basket europeo e basket americano. In più c'è una cosa importante, secondo me, la grande continuità tecnica che sta avendo il Partizan da un po'. Sì. Vujošević è lì da tanto, per cui sicuramente è imposto al lavoro in un certo modo da tanti anni, tutti sanno qual è il loro ruolo, cosa devono fare, i giocatori che arrivano si inseriscono in questo progetto ben definito, e questo sicuramente dà sicurezza, una grande importanza, e come sempre hanno una grande capacità di preparare tecnicamente molto bene i giocatori. Sono piccoli dettagli, però la qualità dei passaggi, la tecnica di passaggio, la tecnica di tiro, insomma tutte queste cose sono cose che servono, e loro le sanno fare molto bene. Continuità tecnica come da noi, uguale. Esatto, esatto. No? Beh, infatti anche da noi, voglio dire, chi ha la continuità tecnica ad alto livello da più tempo è Siena, e lo dimostra. Guarda un po'. Non deve essere stata una gran partita quella comunque del Pionier, visto che è finita 63-62 e il totale, stavo leggendo le statistiche, hanno fatto 6 su 37 da 3. È stata una partita. Non è spettacolarissima, però comunque lì per queste partite. Io però per vincere lì retro, ma a me non dispiace queste partite ai 60, ai 60 e poco, no? No, ma poi ti ripeto, dimostra che per vincere al Pionier devi essere il CSKA e ti può anche andare bene, perché è andata tutto sommato bene. Ha avuto 3-4 ultimi tiri, insomma, il Partizan l'altra sera. Pronostico per il gran finale di Eurolega Siena, come la vedi messa quest'anno? Bene, è chiaro che poi si decide tutto nella parte finale, bisogna vedere i gironi, bisogna vedere soprattutto poi gli accoppiamenti dei playoff prima delle Final Four, però Siena punta decisamente a questo, ha grande continuità tecnica, ha giocatori cresciuti, ha un gruppo molto unito che lavora molto bene, soprattutto ha un'identità tecnica molto precisa dove tutti i giocatori sanno qual è il loro ruolo, quello che devono fare. L'anno scorso è arrivata in semifinale e avrebbe meritato di andare in finale, poi un po' di inesperienza, qualche fischio, insomma due o tre errori, e però insomma ha dimostrato di poter reggere benissimo la semifinale col Maccabi. Quest'anno vuole provare a far meglio, io credo che possa fare meglio. Può fare meglio. Per il resto in Europa, in giro, cosa ti piace? Nell'Eurolega di quest'anno, ovviamente CSKA, che sicuramente la squadra che Pana e Olympiakos gioca a me. Pana è ancora indecifrabile, ha cambiato qualcosa dall'anno scorso, ha aggiunto appunto Pekovic, ha tolto Becirovic, nel senso che ha un po' sfrondato le rotazioni degli esterni, perché effettivamente erano troppi, però anche lì mi sembra non abbia ancora trovato il miglior equilibrio, insomma non è il miglior Panathinaikos che possa essere, però si sa che si farà i conti anche con la squadra di Obradovic. Olympiakos sinceramente mi aspettavo un po' di più, è vero che praticamente rinnovatissima questa squadra, però con il budget che è messo a disposizione, con i giocatori presi, mi aspettavo una qualità di pallacanestro migliore, cosa che al momento non c'è. Le spagnole invece come le vedi? Spagnole io pensavo fossero un anno un po' più, diciamo, meno presenti del solito, invece sono rimasto molto colpito al Barcellona. Secondo me gioca molto bene, ha perso a Siena contro una straordinaria Siena, però una squadra che invece sembra aver trovato buoni equilibri, sembra aver trovato ruoli adeguati per i giocatori, Iliasova che sta giocando molto bene, per cui io credo che delle spagnole quella che mi sembra che possa far meglio sia il Barcellona, quindi ovviamente vincerà il Real Madrid. No, Real Madrid che mi sembra un po' in crisi, un po' sottodimensionato rispetto anche al valore del Tau, per esempio, che mi sembra altra squadra rispetto a questo Real. Sì, il Tau è sicuramente un'altra squadra molto continua, è tornato Ivanovic, è una squadra che ha anche lei punti di riferimento precisi. Il Real Madrid secondo me paga anche un po' la legnata dell'anno scorso, insomma aveva costruito lo squadrone per le Final Four in casa, non c'è neanche arrivata, e da lì insomma c'è stato un po' un contraccolpo. Sì, però vedi, comunque in Spagna riesce a metabolizzare in fretta anche queste delusioni, sì. Perché poi alla fine il contesto è quello che è. Un'altra, scusa se interrompo, che invece avrei pensato potesse iniziare meglio, però bisogna fare attenzione all'Efes Pilsen, secondo me è una squadra molto lunga, con buon talento, con giocatori molto interessanti, l'ho vista in precampionato a Moncalieri contro Siena, che insomma ha battuto Siena, era precampionato, però una partita già molto intensa. Non è partita benissimo, però secondo me l'FS è una squadra interessante. Davide, siamo in chiusura e ti tocca la risposta al domandone: riuscirebbe lo star team di Coach Peterson a battere Siena, sul serio? Sì, beh, potrebbe, in una partita secca può essere, in una stagione non lo so, in una serie nemmeno, però insomma bisognerebbe fare in modo che avesse il tempo di trovare l'equilibrio che ha trovato Siena in 3 anni, insomma fra 3 anni magari. Davide, grazie. Grazie a voi. Grazie per essere con noi. Io vorrei chiudere il programma facendovi sentire invece una battuta di Petrucci, raccolta dal nostro qui presente Flavio Suardi, sul futuro della guida della nostra Federbasket. Meneghin sarà il presidente federale. Vi salutiamo facendovi sentire cosa dice Petrucci. Grazie Davide Pessina per essere stato con noi, Flavio Suardi, Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadore in regia con Palla Spicchi. Ci sentiamo venerdì prossimo, domani dalle 17. C'è Tempo di Sport. È la persona ideale, ha il gradimento di tutti. Mi auguro che anche la Lega di Serie A si schieri al suo fianco, pur facendo delle logiche richieste, perché è logico e giusto che la Lega, che rappresenta le società, poi abbia le proprie richieste. Però penso che oramai si sia trovato il candidato ideale ed è logico e giusto stringersi intorno a lui. Noi per quello che possiamo gli diamo una mano, rispettando ovviamente la sua autonomia. Lei, da presidente del CONI, che idea si è fatto di quella che è la situazione della pallacanestro italiana? Dove si potrebbe e si dovrebbe intervenire? Ma lo sanno tutti, sul problema del reclutamento degli italiani, il problema stranieri, il problema, questi sono i problemi sotto gli occhi di tutti, ci sono sempre troppi stranieri. Però non voglio sempre tornare sugli stessi argomenti, sennò il basket dice parla sempre di noi. We'll be right back.